Il libro del Coelet. Parole di Coelet, figlio di Davide, re di Gerusalemme. O vanità immensa, ha detto Coelet, o vanità immensa, tutto è vanità. Che vantaggio viene all'uomo da tutta la fatica in cui si affatica sotto il sole? Una generazione va e una generazione viene, eppure la terra sta sempre ferma. Il sole sorge, il sole tramonta e si affretta al suo luogo. Va verso sud e gira verso nord il vento. Il vento nel suo cammino non fa che girare, ritorna sempre sulle sue spire. Tutti i fiumi scorrono verso il mare e il mare non si empie mai. Sempre i fiumi tornano a fluire verso il luogo dove vanno scorrendo. Ogni discorso resta a mezzo, che l'uomo non riesce a concluderlo. L'occhio non si sazia di ciò che vede, né l'orecchio si riempie di ciò che ode. Ciò che è stato è ciò che sarà. Ciò che è stato fatto è ciò che si farà. Niente di nuovo sotto il sole. Qualche volta si sente dire: «Ecco, questa è una cosa nuova». Ma questa fu già nei secoli che furono prima di noi. Non c'è ricordo degli antichi e non ci sarà neppure dei posteri presso coloro che verranno dopo di loro. Io, Coelet, sono stato re di Israele in Gerusalemme. Mi sono dato a cercare e a riflettere per mezzo della sapienza su tutto ciò che avviene sotto il cielo. È una brutta occupazione questa che Dio ha dato agli uomini perché vi si occupino. Così ho osservato tutte le opere che si fanno sotto il sole e ho concluso che tutto è vanità e occupazione senza senso. Ciò che è storto non si può raddrizzare, né ciò che manca si può contare. Feci fra me queste riflessioni. Ecco, sono diventato più grande e più sapiente di quanti hanno regnato prima di me in Gerusalemme. La mia mente ha acquistato molta sapienza e scienza. Ma dopo essermi dato alla ricerca della sapienza e della scienza, della follia e della stoltezza, sono arrivato alla conclusione che anche questa è un'occupazione assurda, perché dove c'è molta sapienza, c'è molta tristezza. Se si aumenta la scienza, si aumenta il dolore.